Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo anche oggi. Ci siamo sempre, caro. Soprattutto il venerdì. Soprattutto per dire, ma insomma, come fa dire le solite cose? Tu c'hai questa cosa del fine settimana. C'è anche sabato. Io lo voglio chiarire. Non sono un fannullone, lo faccio solo per la sveglia alle 5. Per me, ma lo so, solo legato alla sveglia. Anche perché si lavora di più a casa, come sai. Domani poi la giornata per me è molto impegnativa, perché c'ho anche una cosa privata sulla figlia appena nata, quindi che va battezzata. Perché va battezzata? Beh, Cardinal Giannino, cosa vorresti? Come sai, è una famiglia in cui c'è un membro che decide al 51 e uno al 49. 51 non sta a me. Sappiamo già chi è. No, ma io sono sincero nel dichiarare. C'è il 51 la mamma e il 49 la figlia. No, 51 la mamma e il 49 la figlia, esattamente. Hai perfettamente colto il punto. Ecco. Cioè io sono nella parte delle eredi contro cui Caprotti aveva, il figlio e della figlia che giustamente Caprotti ha accostato all'altezza. Posso dire una cosa prima dei santi? A me questa disposizione testamentare del Caprotti sembra da scolpire sulla pietra, fenomenale. Ci sono due frasi: una ha detto questo è un paese cattolico che non accetta il successo, esatto. E uno i funerali siano fatti al mattino presto, esatto, onde non disturbare il prossimo. Il prossimo, che dà, è proprio, capisci, e dà la sigla della persona. Sì, sì. Come è noto, lui non sopportava molto l'indole catto comunista del paese. È ovvio che il dire mai alle coppe sarebbe stata una sorpresa se non l'avesse scritto. Chiaro. I veri punti, secondo me, sono esattamente quelli che hai colto tu, cioè quelli della personalità che molti non hanno capito in tutta la vita e che spero però serberemo nel cuore. E soprattutto anche niente necrologi, niente perché necrologi. Sarebbero paginate di fornitori cortigiani. Cortigiani, cioè, no, capisce l'indole. Caprotti. Va bene, senti, oggi è una classica giornata di quelle che se uno va a vedere il calendario dei santi capisce perché noi abbiamo secoli e secoli alle spalle di scontri sopiti che la storia ripropone, ma noi facciamo finta di dimenticarci, ma ci sono. Perché? Perché oggi la Vergine del Rosario, e uno dice la Vergine del Rosario, che bella festa, il simbolo del cristianesimo, insomma, fino a un certo punto, perché c'è questa festa? Perché San Pio V, quello che benedì la bandiera della grande armata della Lega Santa che andava a Lepanto, ne fece la grande festa perché disse che avevamo sconfitto i musulmani per via della Madonna. Hai capito? Quindi Lepanto, oggi è l'anniversario di Lepanto, una delle tre, insomma, da Poitiers all'assedio di Vienne, e quello sono i tre grandi scontri. Allora, questa è una festa che ci fa capire che noi ci abbiamo alle spalle secoli di un certo tipo. Tra i compleanni da ricordare, pensa, oltre a Piero Fassino, oggi è nato Putin. Ci sono delle cose che a volte sono coincidenze singolari. Voglio dire, mi ha fatto un po' sorridere, anche perché ieri c'era Renzi nella mia Torino e oggi ho letto un fondo della stampa che addirittura i Gramellini dice no, ma Renzi lo sa che ha perso. Ma a me non sembra. Sì, l'hai visto quello che ha scritto Gramellini sulla stampa, prima pagina, dice ma in definitiva ieri sì, al di là del talento comunicativo del premier, Renzi comunica che lui lo sa che oramai ha perso e ciò malgrado imposta la cosa, come dire, faccio il simpatico che sa di perdere e quindi spero di vincere. Però mi ha molto colpito questo editoriale della stampa. Auguri anche alla Paul Kahn, che è nato nello stesso giorno del compleanno di, quindi Torino si tiene, insomma. Si tiene. Noi diamo il numero di telefono 800 24 00 24. Caro Oscar, abbiamo scoperto che siamo un paese poco attrattivo per i giovani. Ma dai, 107.000 che se ne vanno via dall'Italia. Io dico, fanno benissimo. Che sorpresa, eh? Benissimo se un ingegnere viene pagato il 40% in più in Germania che in Italia. Non si capisce il tono di scandalo dei giornali italiani. Cioè, scopriamo adesso quanti punti di PIL, di reddito, quanto squilibrio c'è tra a seconda dell'età che hai e di ricchezza accumulato in questi 20 anni. Io sono stupefatto dello stupore, ti dirò. Infatti, volevo chiedere alle nostre ascoltatori. Cioè, vi sembra giusto, doveroso, normale che i vostri figli o voi stessi guardiate all'estero, soprattutto quelli che studiano e che poi scoprono che magari hanno investito sia i genitori sia anche in termini di sacrificio i figli stessi, no? Gli studenti, che e poi da neolaureati magari si vedono proporre stipendi da 700, 600, 800 euro. Dici, ma come, ho fatto ingegneria tutta una vita, eccetera, studia. E poi scopro che invece in Germania, come dice il professore della Luis intervistato al giorno, ti danno il 40% in più, un welfare migliore, possibilità di crescita, premi di produzione. Anzi, io credo che queste cifre, come diverse fonti statistiche eccetera fanno notare oggi, i giornali che hanno riempito le paginate di fronte a questa grandissima scoperta, no? Che ci siamo resi conto che il paese non ha grandi chance di fronte a noi perché è più giovane, e fanno notare che comunque la stima del rapporto migrante è una stima a ribasso, che in realtà è il fenomeno più rilevante di quelli che lasciano l'Italia ogni anno, perché questi sono solo quelli che poi si iscrivono all'AIRE, mentre invece il fenomeno è molto più rilevante per coloro che se ne vanno e non lo fanno. A me sembra semplicemente la riproduzione attraverso le scelte libere individuali di una consapevolezza che si diffonde. Però attenzione Oscar, perché qua c'è anche chi dice che bisogna preservare in qualche modo l'italianità da una parte, chi, come ieri abbiamo discusso con il rettore di Padova, fa notare, tu facevi notare i costi che investiamo altro come che sistema per chi si laurea, E regaliamo capitale umano formato naturalmente, esatto, ad altri sistemi. E quindi sì, la scelta individuale ci sta tutta, e uno è libero, no, è chiaro, di un paese dove dovrebbe riflettere su come fare per porre un argine al fatto che la gente capisca che non ci sono chance e bisogna andarsene, ma questo però implicherebbe un bel po' di cose. Cioè, la mia opinione, te lo dico francamente, non basta un po' di incentivi fiscali a chi ritorna, perché se tu non cambi il sistema delle pensioni, tanto per dirne una, che è retributivo, quindi lo ricordo a tutti, voi siete convinti, molti di voi, che avete il vostro tesoretto da parte e lì si attingerà la vostra pensione. Non funziona così il sistema di ripartizione, le vostre pensioni sono pagate da chi paga i contributi, se c'è chi paga i contributi. Ecco, noi giovani stiamo mettendo in condizioni di arrivare al mercato lavoro tardi, male, con le retribuzioni che dici tu, cioè pochissimi contributi che versano, ecco, quella è un'altra riforma che bisognerebbe cambiare profondamente. Cioè, io sono dell'idea, per esempio, che le aliquote contributive vanno drasticamente commisurate all'anzianità contributiva, cioè all'inizio i giovani, a seconda di quanti anni sono che versano i contributi, devono pagare aliquote più basse, poi nell'arco della vita le alziamo. A questo naturalmente si ribellerebbero tutti coloro che sono avanti. Vedi, un ascoltatore ce lo scrive: l'Italia è il paese dei pensionati, non dei giovani. Effettivamente, insomma, guardiamo sempre i pensionati, categoria alla quale vogliamo benissimo, non solo perché sono nostri grandi ascoltatori, Oscar, ma perché vogliamo bene a loro a prescindere, no, io, è giusto così. Io voglio bene ai pensionati con lo stesso spirito con cui voglio bene ai campioni di calcio. So che non diventerò mai un pensionato, come non diventerò mai un campione di calcio. Tra l'altro Buffon ieri sera, non l'ho visto, ma io ho sentito, insomma, che deve aver fatto una di quelle, un liscio. Ogni tanto liscio capita. Quando ogni tanto dormi capita in nazionale, nella Juve mai, ogni tanto capita quando in nazionale. Dai, non si dice questo. Vabbè, no, statisticamente dico, nella Juve fa sempre delle prestazioni proprio spettacolari. Va bene, buon per la Juve. Buon per la Juve. No, questo non arriviamo a dire queste cose su. Buon per la Juve, nel senso, se gioca bene, buon per la Juve, peggio per me e per noi. Senti, ma i populisti che si pigliano a pugni non è mai. A me la cosa del deputato britannico degli OPP ieri steso per terra, sì, privo di conoscenza al Parlamento europeo, mi ha lasciato. Va bene che uno dice dobbiamo abituarci a tutto con questo mestiere, ma non so dove vogliamo arrivare. No, ha impressionato anche, poi è successo 2 ore dopo la scazzottata, perché all'inizio sembrava risolta, tipo togliamoci la giacca e vediamo chi è più uomo, e poi dopo 2 ore dopo da è cosa? Svenuto da pub. Sì, perché dice il pugno, sì. Posso fare un'ultima osservazione? C'è una cosa, lo so, tutti diranno questo esce fuori sempre con le cose del sud, ma chi se ne frega? No, a me continua a colpire in tutto questo. Ieri un ragazzino di 14 anni accoltella al cuore a San Biagio di Librai, nel pieno centro di Napoli, un altro ragazzino che non ha 15 anni. Come si vede dalla scelta dei giornali italiani, mettiamolo lì a pagina 32, 25, siamo abituati. Io queste cose qui non continuo a considerarle, secondo me, un errore che facciamo tutti quanti, non voglio additare nessuno come più responsabile, però questo non vedere... La cosa grave, insomma, un accoltellamento a 14 anni per un litigio, credo, su una fidanzatina. Okay, ma intanto è considerata scuola. Come una cosa, ormai vabbè, ma Napoli, ma figuriamoci, no? Poi, per carità, capisco, ieri a Napoli si inaugurava la Apple Academy, quindi bisogna i lustrini, però la realtà è che poi... quando la realtà diffusa di massa tra i ragazzi è quella, non facciamo finta di credere che la Apple Academy, che è un'iniziativa ottima, che benedico, ci sono tanti giovani selezionati che fanno capire che hanno capito qual è la strada per il futuro, però la realtà poi è quella che noi non vediamo. Tra l'altro di scuola tra poco ci occupiamo, ci occupiamo assolutamente, con due ospiti che sono già tra noi, tra poco li salutiamo. C'è Stefano però che ci chiama da Roma sul tema, credo, emigrazione giovanile, così Stefano? Sì, esatto, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una battuta, premetto che io ho tre figli, di cui due femmine già hanno fatto un anno di scuola fuori, quindi sono pronte per, dopo i primi anni di università, andare via. La mia battuta, così, la mia provocazione è questa: io non mi stupisco di quello che succede, cioè che due laureati su tre vadano fuori, mi stupisco di come quell'uno riesca a rimanere qui. Questo è tutto. Beh, una battuta fulminante che però, Stefano, è molto molto chiara, e la ringraziamo per la sua esperienza. Giovanni invece da Brescia, buongiorno. Buongiorno, grazie amici miei di avermi chiamato, mi grazie state compagnia da tre anni, in quanto ho 54 anni e da tre anni sono disoccupato. Collegavo alla storia appunto di questa fuga di cervelli di ragazzi giovani, e io sono veramente allibito che questo Stato non riesce a gestire i lavoratori con esperienza come me, che è andato tanto, perché in tre anni di disoccupazione non ho avuto la richiesta né di un corso per migliorare le capacità informatiche né per migliorare l'inglese, quindi tanti sbandierati centro per l'impiego non hanno funzionato. Lo Stato si ricorda di me e di quelli come me, che siamo in tanti, solo se passiamo sotto multa nuova, allora mi arriva la bella bustina verde a casa e tutto, e dimentica questi ragazzi che sono fortissimi. Quindi, partendo dal presupposto di Caprotti, che diceva il montanelliano detto l'Italia catto comunista, diciamo che adesso siamo arrivati ad una pretaglia rossa che governa il paese e veramente affossa le sue risorse migliori, non tiene conto della forza e dell'esperienza e della grinta che abbiamo anche noi over 50, che potremmo fare un mix veramente vincente con un ragazzo giovane in azienda, dove tutti e due imparano uno dall'altro. E io sono veramente deluso come cittadino italiano. Beh, Giovanni, questa delusione, che però è deluso, però la sento anche molto battagliero, motivato, quadrato, battagliero. Cioè, secondo me bisognerebbe chiamarlo in radio, Giovanni. Ma è possibile, Giovanni, faccio solo una domanda. Da quello che ho capito, lei quindi si è rivolto al centro dell'impiego, ma non ha ottenuto nessuna proposta? Assolutamente, ecco. Sono anche tutti gli altri dote, Regione Lombardia, coaching, non coaching, quindi parlo di una regione avanzata. Esatto, molto in teoria forte. Sì, molto. Se non li chiamavo io per dargli il buona Pasqua e buon Natale e farmi sapere se ero ancora vivo, ho detto: signori, voi vi accorgete di me neanche quando sarò tumulato, perché non mi avete proposto nulla. Io sto facendo adesso un lavoro di volontariato presso un'azienda, diciamo una comunità che segue ragazzi che stanno facendo un'esperienza dopo essere stati condannati dal giudice del tribunale minorile per non andare in galera e quindi riabilitati. Do una mano agli educatori, sto vendendo dei prodotti di una famosissima ditta americana casa per casa come dimostratore culinario, perché mi piace fare la cucina, sto facendo il mystery shop quando mi chiamano, quindi io mi do da fare al 300%. Capito, si dà da fare, ma diciamo laddove però ha bussato, dimostrazione, per capito, avere delle, che delle, lo Stato delle così aiuti, pesante di risorse in realtà non fa niente. Giovanni, con questo spirito, lo so, ce la farà sicuramente, perché la sentiamo talmente combattivo. Certo, l'amarezza rimane. Allora Oscar, vogliamo presentare intanto due ospiti: il professor Carlo Braga, che dirige l'Istituto Tecnico Commerciale Salvemini a Casalecchio di Reno. Buongiorno, siamo in provincia di Bologna, professor Braga, grazie. Buongiorno. Con noi c'è anche Marcello Pacifico, che è presidente dell'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, anche lui insegnante, Pacifico, eccoci. Sì, buongiorno. Allora, intanto Braga, oggi, se non ha già letto i giornali, il sottosegretario Faraone dice che è già stata aperta una indagine sul caso della sua scuola. Ci aiuti a capire, perché alcuni giornali ieri ha titolato così: siccome non ci sono cattedre coperte, o meglio ci sono insegnanti che hanno firmato il contratto, non ci dica lei quanti nella sua scuola, e poi se ne sono subito andati o in malattia o legge 104 nelle loro regioni di provenienza, non ci sono abbastanza insegnanti di sostegno per i disabili. E ieri titolavano i giornali, quindi l'invito suo a dire: se potete tenerli a casa, ci fate una cortesia ai genitori. È più o meno così? Una volta fanno dei danni molto gravi, questo è un tema da affrontare con estrema delicatezza e precisione, per cui non si possono dire cose o fare dei riferiti. Mi dispiace che molti stiano dicendo delle cose che non esistono, nel senso, in questo momento tutti i miei studenti, io sono a scuola adesso ovviamente, siamo in 1400, di cui 60 disabili, di cui tra questi 47 gravi, e tra questi 47 gravi 24 in condizioni di gravità altissima. In più abbiamo anche dei disabili sempre in questo momento a Malta, in Erasmus, scuola-lavoro, perché siamo tre settimane di Erasmus, perché siamo una scuola d'eccellenza nella attività di inclusione, cosa curiosa che però nessuno si accorge delle eccellenze, e la scuola è iniziata il 15 settembre, per cui qualcuno si sarà chiesto cosa ho fatto fino ad oggi, che è il 4 di ottobre, dal 15 settembre che la scuola è iniziata, in cui nessuno è stato a casa. Invece, esatto, è finito sui giornali per Invece sono finito sui giornali, e questo purtroppo, ma anche le affermazioni che mi ha letto, io non li sto leggendo perché mi dispiace che li leggerà soprattutto il mio gruppo di lavoro, perché il rischio sarà che il gruppo di lavoro pianta in asso quella passione e quella dedizione che ci vuole per seguire questo settore, perché solo chi lo segue lo sa, gli altri che lo vedono da fuori pensano che sia dovuto, veniamo alla questione. Intanto, quanti insegnanti hanno firmato il contratto e se ne sono andati via il giorno dopo per malattie o altre situazioni? Solo sul sostegno, poi ovviamente vale lo stesso per i curricolari. Io ho avuto 18 assegnazioni di trasferiti di ruolo, cioè assegnati ad agosto, sul sostegno. Sì. Questi 18 insegnanti di sostegno hanno preso servizio il 1 settembre, sì, firmando il contratto triennale, e di questi 18, 17 sono rientrati alle proprie abitazioni tramite quelle che sono le tutele varie che esistono, che sono dal congedo parentale fino alle utilizzazioni di cui tutti hanno sentito parlare. La legge 104, per esempio. Poco alla volta utilizzazione e assegnazione provvisoria. Poco alla volta non hanno mai prestato servizio effettivo, perché da allora, al momento in cui hanno avuto hanno firmato e sono andati, e io ovviamente ho provveduto a fare tutte le sostituzioni con delle supplenze temporanee. Di tutti questi. Ma è vero che lei, almeno diciamo questo, poi approfondiamo dopo la pubblicità, è vero che lei ai genitori di questi ragazzi disabili ha detto in questa situazione di carenza di personale cerchiamo di venirci incontro, cioè se qualcuno proprio riesce qualche giorno? Non è così, cioè, allora il problema è stato, io ho incontrato i genitori come faccio diritto tutti gli anni, per cui non è che sono qua da quest'anno, sono qua da molti anni. Ho descritto l'operazione di turnover che ci sarà tra oggi e lunedì, perché oggi vengono fatte le nomine all'ufficio provinciale scolastico provinciale, oggi e domani vengono fatte le nuove nomine, e lunedì le farò io, che ho convocato 300 supplenti, e ho detto ai genitori: guardate che in questi tre giorni, che io ho incontrato l'altro ieri i genitori, per questo è successo, in questi tre giorni ci sarà un turnover importante sui docenti che avete, per cui cambieranno le figure, ci saranno educatori che sostituiranno insegnanti, insegnanti di curricolari che sostituiranno, però la scuola è aperta, il funzionamento è garantito a tutti, è chiaro che in alcuni casi gravissimi, stiamo parlando di due o tre casi gravissimi, questo può destabilizzare il ragazzo, perché non è che stiamo parlando di situazioni in cui il ragazzo può stare da solo a scuola, il ragazzo che lo conosce e che comprende anche il tipo di patologia che ha, perché si possono fare dei danni importanti. Questa è stata l'unica affermazione che ha generato questa cosa, è stata questa, che ci sarà un turnover, per cui cioè informare le famiglie, mi sembra, famiglie. Cioè io un po' di ragionare impressione. Se va bene che ci sia questo cambio persona che affianca al caso. Io poi la figura ce l'ho, non è mica un problema, io metto chiunque, nel senso che qua stiamo lavorando tutti 10 volte di più di quello che è l'attività. No, è cioè, no, io non vorrei, fuori con rispetto, non vorrei che il caso diventasse quello del professor Braga che informa le famiglie di quello che deve accadere per sostituire tutti coloro che appena firmato se ne vanno, perché il problema è tutti quelli che appena firmato se ne vanno, e rivedere le tutele in base alle quali questo diventa certe volte più la norma che l'eccezione. Questo secondo me è il problema, non tanto informare le famiglie, ragazzi. Però facciamo così, professore, perché dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi ripartiamo anche con Marcello Pacifico, perché invece anche sui giornali oggi c'è il sottosegretario all'istruzione Faraone, che dice deve restare fuori da scuola, ma prende fischi per fiaschi Faraone, tra l'altro dicendo lui ha una figlia anche disabile, quindi racconta anche la sua esperienza, dice abbiamo già avviato un'indagine. Ma sta a vedere che è Braga adesso il problema, cioè è veramente singolare l'Italia. Ma infatti spero che l'indagine sia sui 17 professori che hanno firmato e sono tornati a casa, ma pazzesco. Non l'ho capito, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, stiamo parlando di questo caso della scuola di Casalecchio, vedi Oscar, il sottosegretario Faraone al giorno, non si può dire ai genitori tenete i vostri figli a casa, non si devono trovare soluzioni che vanno nella direzione dell'accoglienza comunque. E ma anche insomma, il sottosegretario però ci dà una prova, mi permetto, lo dico con rispetto, ma insomma io mi aspetto che se un giornalista lo chiama sul caso il sottosegretario sappia di cosa sta parlando. Ma anche la deputata Puglisi, responsabile della scuola PD, il professor Braga torni sui suoi passi, il professor Braga è il problema, ma dai, che è qui con noi, che pena sti politici. Però allora Marcello Pacifico, le obiezioni che vuole fare, il problema non sono i 17 insegnanti su 18 che firmano e per carità avranno tutti i loro certificati a posto, tornano a casa tra malattie 104? Allora, innanzitutto io posso offrire la soluzione al preside, se vuole lascio la mia email e gli invio 100 docenti specializzati nella scuola superiore sul sostegno dall'università pubblica. Su un numero programmato hanno pagato 3.700 euro, 1.400 euro di corso, 175 ore di tirocinio e sono a casa in Sicilia perché il Ministero non li ha voluti inserire nelle graduatorie e non gli ha dato la possibilità di essere immessi in ruolo. E questo dovrebbe fare il Ministero innanzitutto come risposta. Non può l'Università, sotto ordine del Ministero, specializzare degli insegnanti sul sostegno e poi lasciarli a casa. In secondo luogo, il sottosegretario Faraone come la senatrice Puglisi sanno bene che in Italia l'organico di fatto non corrisponde all'organico di diritto. Che voglio dire? Noi abbiamo più di 250.000 alunni certificati con handicap. In realtà abbiamo assunto in ruolo come docenti di sostegno soltanto 90.000 insegnanti e chiamiamo ogni anno 40.000 insegnanti come supplenti. Questo è il problema del preside che ha. Perché? Perché li chiamiamo come posti in deroga. Ma in deroga a che cosa? Possono essere in deroga per un anno. Cioè io ripeto, Pacifico, il problema del preside non sono 17 che firmano e casualmente 18 che firmano e il giorno stesso 17 hanno un problema per cui devono tornare a casa. Non è un problema questo, è un è una statistica accettabile. Cioè, lei ci sta dicendo, e io lo capisco, che la soluzione sono ancora più assunti a tempo determinato. Mi faccia dire però, abbia pazienza. Ha cominciato spiegando questo. Allora, ok, questo. Prendiamo atto che comunque la riforma ha iniziato ad assumere, l'abbiamo detto l'Europa che ci ha detto non potete avanti con i precari, eccetera, eccetera. Dico che i numeri sono, il precariato resta, ma in questa situazione lei capisce che se io mi metto nei panni, io ho un figlio, e 17 su 18 firmano e scopro che hanno firmato con riserva, perché sono tutelati a dire ma io da domani tanto non ci sono, lei capisce che la sua soluzione, che io rispetto, capisco, però a me genitore dico sì, ma nel frattempo non può avvenire questo, capisce? Cioè non funziona. No, questo dovrebbe capire il Ministero innanzitutto, che non dà gli organici come deve, però dovrebbe capire il Ministero che firma in Sicilia un contratto integrativo regionale che consente gli spostamenti e le assegnazioni provvisorie al personale sprovvisto del titolo. Noi per esempio in una scuola in Sicilia a Cefalù abbiamo inviato 3 persone senza il titolo di specializzazione e insegneranno tutto l'anno sul sostegno. E allora se il Ministero firma questi contratti è il Ministero che dovrebbe dare delle risposte alle famiglie. Noi come sindacato quello che possiamo fare è ricorsi gratuiti in tribunale e facciamo avere gli insegnanti di sostegno in 2 mesi e mezzo con ordine del giudice, però è il Ministero che dovrebbe evitare i ricorsi in tribunale, è il Ministero che dovrebbe adeguare gli organici in base alla popolazione degli alunni, lo dice la legge italiana, e tutti i contratti che sono su posto vacante disponibili dovrebbero essere dati a tempi indeterminati. E richiamando questi doveri del Ministero, lei non, proprio, ripeto, ma glielo ripeto terza volta, rimbalza, ma forse, cioè, forse Braga ci può aiutare. Non abbiamo nulla da dire a quei 18 insegnanti, 17 dei quali il giorno dopo, ma Braga lei li ha visti almeno? Quando sì, dunque, io faccio una specifica, ovviamente io sono un uomo di Stato, per cui devo, ho delle, come dire, un ruolo molto applicato, per cui non posso entrare in temi di natura sindacale. Io quello sono un tecnico che affronta e risolve i problemi tecnici che una scuola come questa può portare avanti, e per questo quello che mi preme sottolineare è che noi i problemi li abbiamo sempre risolti, tant'è che siamo al 5 di ottobre, anzi oggi è il 7, a discutere di una cosa che dovrebbe essere, se volevamo, iniziata molto dal 15 prima, settembre, come discussione. Io sono a scuola dal 15 settembre e fino ad allora nessuno mi ha sollevato critiche di nessun tipo. Poi che ci sia una tutela legittima dei lavoratori che legittimamente sono stati assunti. La 107 ha avuto un grande, la famosa riforma, ha avuto un grande merito di stabilizzare un numero molto alto di docenti con contratti a tempo indeterminato, per cui malattia, sì, ferie, tredicesime, tutto quello che riconosce. E io questo riconosco il grande merito di questa operazione, perché è stata unica anche nel suo genere. È ovvio che la tutela del lavoratore legittimamente assunto, però si deve compenetrare con la tutela della scuola e degli studenti. Ci arriviamo finalmente. Le due tutele, in questo caso, a mio parere, sono in conflitto, bilanciate, in un eccesso di possibilità di mobilità del docente contro la necessità della scuola. Questo non è condivisibile, lo faccio come osservazione tecnica. È chiaro, io rendo merito al politically correct con cui ha fatto tutte le premesse che al suo posto capisco si debba fare, no? Dalla legge il punto è che questo è un caso ennesimo che noi proponiamo ai nostri ascoltatori di abuso di 104, per carità, invocata e applicata ai lavoratori pubblici secondo quello che la legge prevede, però che propone ai lavoratori una classica interrogativa: com'è che le percentuali sono così più elevate nel pubblico rispetto al privato? Ci sarà qualcosa da rivedere sul meccanismo che porta a picchi percentuali così elevati nel pubblico rispetto al privato? Ecco, tantissimi casi, e non ci stiamo pronunciando su quei 17 che non conosciamo, quindi. Però è una considerazione generale, perché diciamo che statisticamente c'è stata un'epidemia di problematiche in quella tutto scuola, tutto qua, e quindi sostegno pieno a chi, come il professor Braga, poi deve risolvere i problemi tecnici, li risolve, eccetera, eccetera. Mi dispiace, un fischio come farebbe l'arbitro nei confronti di Faraone, dei politici che invece di informarsi dicono che il problema è il professor Braga che risolve il problema e non la questione delle tutele eccessive nel lavoro pubblico della 104 e così via. E forse un giorno il professor Braga non dovranno risolvere così tanti problemi, ma un po' meno. E io, come genitore, mi preoccupo un po' meno. Sì, forse una frase che lei, professore, avrà detto a qualche genitore di questi alunni ha fatto suscitare il putiferio. Cioè, se lei avesse detto: guardate, magari se qualcuno ci può venire incontro in questi giorni a tenerlo a casa mezza giornata, magari questo ha scatenato il putiferio, a dire: ecco, non vogliono i bambini disabili nella scuola. No, infatti è stato una assoluta, cioè, non è nessuno, ripeto, se uno passa da scuola adesso, possono venire a vedere, ma cosa vuol dire essere in una scuola ad alto tasso di accoglienza. Il problema è che alcune affermazioni che vengono fatte mi demotiveranno il personale che sta lavorando tre volte su quando lavori più come missione che come stipendio, il danno può essere molto grosso. Il danno può essere fatto. Io speriamo di no. Poi ecco, questa indagine sulla scuola, spero davvero che no. Il ministero forse... Fate la superiore 17 insegnanti. Avrà tempo Faraone per capire che quello che ha detto non è giusto. No, ma sarà tutto in regola. Fate l'indagine su questi 17 insegnanti, controllate i certificati medici per chi ha la 104, pubblico, la malattia per chi ha la malattia. Insomma. Vedi che poi nel pubblico, comunque ringraziamo i nostri, sì, claro, ecco, grazie, professor Braga. Però vedi, il pubblico a volte dà delle dimostrazioni di essere consapevole dei suoi limiti. Pensa alla singolare paradosso del presidente Maggioni e il capo azienda della RAI, Campo dall'Orto, che protestano perché l'Istat ha detto la verità, cioè che la RAI è pubblica, no? E loro stanno insorgendo, ma se ci dite che siamo pubblici, sono per pubblici. Loro sono 100% pubblici, ma se ci dite che siamo pubblici, noi non possiamo spendere come spendiamo. Ma infatti non dovete spendere come spendete. Ma capisci a che punto siamo? Loro dicono la RAI non è pubblica. Che è una cosa da giornalista che tu dici: vabbè, io straccio tutto, ma perché faccio il mio mestiere? No, devo stracciare. Pure riportare le voci del presidente della RAI che mi dice che non è pubblico. Ma non mi arrabbio, ma no, capisci? Vaglielo a dire: il canone in bolletta, però non è pubblica la RAI. Ma dai. Sentiamo Ernesto, ci chiama da Roma. Ernesto, buongiorno. Buongiorno ragazzi, siete molto in gamba, vi faccio i miei complimenti, vi ascolto quasi tutte le mattine. Bene, grazie. Volevo riportare, diciamo, quella che è la mia esperienza, quanto negativa. Io partirò tra appena 3 mesi e, diciamo, mi stabilirò con tutta la famiglia a Lione. Ah, bellissima per questo città. Motivo. Bellissima. A 23 anni mi laureo in informatica, sono anche diplomato in pianoforte e alloggio altri 3 titoli. Ah. E ho lavorato un po' dappertutto, anche in America. Alcuni dei programmi più famosi in ambito musicale portano anche la mia firma. Ah. Sono precario da 18 anni in diversi teatri, in in fondazioni lirico-sinfoniche, aspettavo l'assunzione forse con un concorso l'anno prossimo, ma ad agosto, il 3 agosto, il governo ci ha fatto un altro splendido regalo, la legge 160, che in pratica dall'anno prossimo distruggerà le fondazioni lirico-sinfoniche, riducendole a delle mere sale dove qualcuno, qualche imprenditore, potrà probabilmente approfittare per sfruttare la situazione e guadagnare soldi. E quindi lei? In 20 dal Petruzzelli di Bari è uscito sto concorso a Lione, siamo andati là, ci hanno accolti a braccia aperte e io l'anno prossimo vado a fare l'artista del coro in Francia. Ernesto, e con immagino una delusione nel cuore per un paese che lei dice ci ha un po' voltato le spalle nel suo ambito e nuove speranze, che le dobbiamo dire? Però, vedi, Ernesto, lo stupore dei giornali oggi di fronte a tanti Ernesto è uno stupore che deriva dal fatto che noi raccontiamo una realtà, molti raccontano una realtà che, aderendo alle fette di prosciutto sugli occhi, per sentire che l'Italia che figa, va benissimo eccetera eccetera, la realtà è che eccola è la realtà. Enrico da Pescara, ci spiace, teniamo il numero, se vuole lunedì ci racconterà, perché anche lui era in attesa ma il tempo è scaduto, ci dobbiamo fermare. Non ascoltate la RAI perché non è pubblica, no, dicono i vertici della RAI, questa è la mia non idea. Non ascoltate la RAI perché state qui su Radio 24. Che barzelletta, che barzelletta. Allora, è venerdì, io ci sono anche oggi pomeriggio e anche domani mattina alle 10 alle 12, ma invece noi ci vediamo lunedì mattina con Milan. Ciao, a domani.